Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e questa volta saluto Maria Grazia Cangemi dell'ufficio legale dell'Adico. Benvenuta Maria Grazia. Grazie e buongiorno a tutti. Allora Maria Grazia, oggi parliamo di una notizia che è assolutamente di queste ore, parliamo di Equitalia e della rottamazione bis, che non ha niente a che fare con le macchine da rottamare. Sì, esatto. E un argomento di cui si sta discutendo in queste ore, ovvero la possibilità di una rottamazione bis, cioè vuol dire la possibilità di sanare le cartelle Equitalia notificate nei primi 3 mesi o 6 mesi del 2017. Questa è una cosa di cui ancora si sta discutendo. Oltre a queste cartelle, quindi oltre i ruoli del 2017, possono rientrare anche i vecchi ruoli, quindi degli anni addietro, per tutti coloro i quali non hanno fatto in tempo a chiedere nella precedente rottamazione l'adesione. Ecco, spieghiamo allora in parole semplici, la rottamazione cosa permette? Permette di non pagare tutte le more, queste cose qui, ci sono dei vantaggi? Sì, assolutamente sì, il vantaggio principale è quasi uno sconto del 50% della cartella nel momento in cui si vanno a decurtare le more e gli interessi. Beh, quindi è assolutamente da fare. Adesso dobbiamo attendere per la notizia ufficiale di questa rottamazione. Adesso dobbiamo attendere che il governo deliberi con la legge di bilancio la possibilità appunto di questa nuova rottamazione. Ecco, nel caso passasse questa cosa, cosa consigliamo? Noi consigliamo di aderire a questa rottamazione, visto e considerato appunto che si hanno ovviamente dei vantaggi, però bisogna anche ricordare che il rovescio della medaglia qual è? Che i debiti andranno saldati se rispetteranno la prassi della vecchia rottamazione in 5 tranche, con delle scadenze determinate da Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate Servizio Riscossioni. E nel momento in cui non andrà rispettata una sola rata, si decade dal diritto alla rottamazione e quindi è come se nulla fosse stato fatto. Certo. E riprende il pagamento delle vecchie cartelle. Ah, ecco, quindi bisogna essere sicuri e di essere in grado di pagarle queste, esatto, cose. E questo può essere un problema. Ovviamente l'ufficio dell'Adico è a disposizione. Sì, certo, noi siamo qui a disposizione dei nostri soci e di chi ha dubbi, perplessità, insomma ci trova qui in ufficio per aiutare chi ha bisogno. Ci sono altri particolari che vogliamo segnalare? Allora, il particolare della rottamazione è, vabbè, intanto chi appunto la scorsa volta non è riuscito ad aderire perché magari era scettico, magari non era in quel momento in grado di provvedere al pagamento, che comunque può presentare la domanda. E possono presentare la domanda anche tutti coloro i quali in precedenza l'avevano presentata ma era stata scartata per qualche errore formale, quindi anche questa volta è possibile ripresentarla. Ah, benissimo. Allora, ricordo che c'è il sito anche www.associazionedifesaconsumatori.it, dove si trovano poi i numeri di telefono, i contatti per sentire l'Adico, per avere anche magari qualche ulteriore dettaglio attraverso il telefono e poi eventualmente utilizzare il vostro ufficio legale. Grazie quindi a Maria Grazia Cangemi per averci segnalato questa notizia. Grazie a voi, buona giornata. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.